gatto il pesce, fritto scruta il gatto il vano, spinto qua chi tocca l'albicocca, il re s'arrocca e sputa in bocca qua. Cinque quinte al teatrino, sta dormendo il soldatino, poche cicchia nel taschino, presto torna al paesino là. Pesce guatto, sei Perseo sulla spiaggia, sei Pareo sulla chiappa, baffi e barba un bel trofeo, suona l'arpa sulla groppa a te. Sette ceri sull'altare, cani cani a latrare, che sporcizia l'ingiustizia, l'amicizia che mestizia. Pesce quanto. E poco importa al pesce gatto, e sotto il fango se ne sta, e fino a quando il sole scotta e tutto il fango seccherà. Ma poco importa al pesce gatto che quatto quatto se ne andrà, e al fango secco, senza di lui, senza di lui, seccherà. Yeah.